È arrivata l'estate, che grande novità. Dio quanto caldo, chissà cosa comporterà. Tanti scompigli per l'acqua che non bagnerà. Tutti quei cigli e al TG se ne parlerà.